La scrittrice Barbara Alberti ha scelto l'esilio. Era da tempo nota la sua decisione di ritirarsi dal mondo. Vive nel faro di Capo Finisterre, all'estremo occidente della Spagna. Da questo luogo, l'esule Barbara Alberti continuerà a tenere vivo il contatto con le donne che la interpellano per consigli in questione di cuore e qualche suo raro amico. Шарманка, шарлатанка, как сладко ты поёшь. La guardiana del faro. Шарманка, шарлатанка, куда меня зовёшь. Voci e pensieri per Barbara Alberti. Шагаю еле-еле. Ecco, uno viene quassù sulla cima del faro con quest'idea infantile, egoistica e giocosa di levarsi dai piedi del mondo. Ma il mondo c'è intorno, lo vedo, lo sento e mi arrivano le notizie. E mi è arrivata anche questa piccola lettera di un bambino di 9 anni. Io sospetto che sia un apocrifo di un mio amichetto di 13 che si è abbassato l'età perché si vergogna a parlare in prima persona, ma credo che non dovrebbe vergognarsi perché ci sono persone anche di 60 anni che hanno dei sentimenti molto simili ai suoi. Questo bambino ha scritto in anticipo una lettera a Gesù per i regali di Natale. Caro Gesù, sono Matteo, 9 anni. Quello che l'anno scorso ti ha chiesto il cellulare che faceva le foto. Io ti scrivo perché vorrei che tu mi anticipassi il regalo di Natale. Non posso aspettare. Mi serve adesso, prima possibile. Avevo pensato di chiederti l'iPad, ma te lo puoi tenere. C'è una cosa molto più urgente. Ieri la mamma si è arrabbiata con la nonna perché stava raccontando a mia sorella piccola la favola di Pollicino. Ha detto non voglio che le racconti queste storie, sono troppo spaventose. Io e mia sorella ci siamo guardati, pensando la stessa cosa. Ma spaventose per chi? Ma non per noi, che ci fanno vedere i telegiornali. Anzi, io lo invidio, Pollicino. Beato lui che aveva un orco solo, perché io non so più dove rigirarmi. Allora ti dico un po' delle mie paure. 1. Ho paura del terremoto. Casa nostra trema quando passa l'autobus. E ogni volta che passa il 310... io penso che il terremoto, come in Giappone. Ma basterebbe come l'aquila per morire di paura. O per morire e basta. 2. Ho paura dello tsunami. Domenica siamo stati nella casa al mare. Io non ho voluto passeggiare sulla spiaggia, con la scusa che era freddo, perché pensavo magari viene un'onda di 30 metri e mi porta via. Poi però, solo in casa, ho avuto paura lo stesso, perché un'onda di 30 metri si portava via anche la casa, con me dentro. 3. Ho paura della nuvola radioattiva di Fukushima. Poveri giapponesi, ma quella adesso mica rimane ferma sopra di loro, quella si muove. E prima o poi verrà anche qui, se intanto non è scoppiata qualche altra centrale più vicina. E magari saremo già morti per i cibi radioattivi, perché diventeranno un affare e mica li buttano. Che gli importa se muoio io o mia sorella? 4. Ho paura di tutta la gente che viene a casa nostra, dall'Africa, che la TV dice che arriveranno qui a milioni e li fanno vedere tutti in quell'isola che manca pure l'acqua. E ho paura che verranno a stare a casa mia e mi levano la mountain bike e la TV satellitare. Più di tutto però ho paura della guerra. Sono partiti tutti per la Libia, ma poi è venuto fuori che non sanno bene che sono andati a fare né chi comanda. E di Gheddafi dicono che è un delinquente, ma che è una brava persona. La nonna dice che devo pregare per i bambini della Libia. Io prego, ma intanto ho paura per me. Lo so che ci stanno loro sotto le bombe, ma io non posso fare a meno di immaginarmi al loro posto. Io la vedo la guerra. Lo so che qui le strade sembrano in ordine e le case tutte in piedi, ma io vedo tutto distrutto. Io mi sento i razzi sopra la testa, perché so che accadrà qui come lì. È questione di tempo. E mi sento come il bersaglio della PlayStation che prima o poi viene beccato. Allora, veniamo al regalo. Il regalo grande che ti vorrei chiedere, visto che esisti, è di mettere a posto tutto quello che abbiamo sciupato. I vulcani, il mare, la terra. Di far smettere la guerra. Ma non ho tanta speranza. Perché se lo volevi fare, lo facevi da prima. Ho un regalo più piccolo, che forse è più facile. Caro Gesù, mi puoi almeno levare un po' di paura? Diciamo che succede lo stesso quello che succede, ma almeno di non rovinarmi anche le cose belle che ancora ho, perché io vivo nel terrore. C'è un mio compagno di scuola, si chiama Alessandro, e ha paura pure lui, però vive meglio di me perché mi ha spiegato che apprezza di più quello che ha, adesso che tutto è così precario. E più ha paura, più capisce quanto vale mangiarsi un gelato in pace, oppure andare al parco senza dover stare attento alle bombe. Ecco, mi puoi almeno far diventare come lui? Almeno questo regalo me lo puoi fare, Gesù. La guerra è già scoppiata, Marcon di Rondero. La guerra è già scoppiata, chi ci aiuterà? Ci aiuterà, buon Dio, Marcon di Rondero. Ci aiuterà, buon Dio, lui ci salverà. Buon Dio è già scappato dove non si sa. Buon Dio se n'è andato, chissà quando ritornerà. Ma io non potrei dire niente per assicurare questo bambino, anzi lo spaventerei di più, perché mi viene in mente di leggere questa poesia di Alexander Bloch, che lui scrisse nel 1914, quando la Russia già c'era la prima guerra mondiale, e poi 3 anni dopo venne la rivoluzione e tutto il resto. È una poesia triste, ma chissà che non sia, visto ciò che sta accadendo, addirittura ottimista. Come spesso piangiamo, voi ed io, sulla nostra vita miserevole. Ah, se sapessimo, amici, il freddo e il buio degli anni futuri. Oggi tu stringi la mano dell'amata, con lei giochi scherzando. Bambino, bambino, sarà sempre più nero il mondo, terribile, sempre più pazzo il vortice degli astri, per secoli ancora, per secoli. E l'ultimo secolo, il più atroce, io e voi lo vedremo. Aspetterai, bambino, la primavera ti ingannerà, chiamerai il sole nel cielo, il sole non si leverà. E un grido, quando prenderai a gridare, come una pietra sprofonderà. Siate dunque contenti della vostra vita, più quieti dell'acqua, più bassi dell'erba. Ah, se voi sapeste, bambini, il freddo e il buio dei secoli futuri. La guerra è dappertutto, Marcon di Rondera, la terra è tutta a lutto, chi la consolerà? Ci penseranno gli uomini, le bestie e i fiori, i boschi e le stagioni con i mille colori. Di gente, bestie e fiori no, non ce n'è più, viventi si è rimasti noi e nulla più. La guardiana del faro. Capitaneria di Porto. Come richiesto, l'antropologa e giornalista Genevieve Macaping è in collegamento. Barbara Alberti è autorizzata a parlarci. Ah, Jenny. tu sei già venuta a trovarmi vocalmente al faro. Ma pensa che proprio in questi giorni mi è tornato sotto gli occhi il tuo libro Traiettorie di sguardi, che tu avevi pubblicato con Rubettino, che raccontava la tua storia in questa lingua italiana così fresca che sembra nata adesso, dove raccontavi il tuo rapimento dal Camerun con questo giovane francese che poi è diventato il tuo sposo e che è morto tragicamente. Ma la tragedia era doppia, perché è morto tre settimane prima che diventasse sua sposa e lui il mio. Ah, quindi non vi siete sposati, certo. No. Per questo dicevo che l'Occidente, prima di avermi ancora concesso un futuro, mi aveva tolto un presente, mi aveva tolto la speranza. E quindi ti sei trovata sola in Europa? Sola. In questo libro parli del razzismo strisciante e palese, poi era già di parecchi anni fa, adesso è peggiorato. Adesso è peggiorata, perché adesso c'è un razzismo un po' già più intellettuale, no? Per esempio, sì, portiamo gli aiuti in Africa per nascondere il fatto che in realtà non si porta nessun aiuto, ma si va a prendere, come già dai tempi della colonizzazione, prima. Hai anche questo dono nella vita e nel libro di questo umorismo meraviglioso, con la facoltà di far ridere, servendoci da specchio per i nostri vizi più drammatici. Assolutamente, qualcuno ridere può, per non piangere. Come Jonathan Swift in Una modesta proposta. In questo libro c'è la nostra società vista da un'antropologa che ha avuto il privilegio di guardare le cose dall'altra parte, come migrante, come donna nera in un paese bianco, che riscopre oggi, dopo tante chiacchiere sull'uguaglianza, la sua animaccia postcoloniale. E stiamo diventando davvero brutti. E quindi, cara Jenny, che mi dici adesso che siamo così, quasi con leggerezza, entrati in guerra? Ma no, non è una novità. D'altronde noi Italia siamo sempre stati così, sempre perbenisti, sempre noi brava gente, quindi gli altri fanno la guerra, però noi non la facciamo, e che non è vero. La facciamo come se non la facessimo? Eh sì, è un po' come dire, senti, guarda, io quello lì non lo voglio ammazzare, però ti do il coltello, lo fai te. Ma io, guarda, io sono una calabrese, e la storia mi insegna che il mandante è colpevole quanto colui che compie l'atto. È chiaro il concetto. Quindi senza ipocrisia ci si mette lì, si dice sentite, guardate, quest'uomo, signor Gheddafi, è stato uno grande stronzo, però ci faceva comodo, e adesso basta, se ne vada via, senza nascondere, gettare il sasso, poi nascondersi la mano. E i nostri giovani stanno a guardare, bisogna essere onesti, sempre. Senti. E l'Africa non è da adesso, tutta l'Africa ha paura di quell'uomo, e quindi è anche abbastanza tardiva questa azione. Si dimentica, c'è l'OUA, che è l'Organizzazione delle Unità Africane, con dei padri fondatori grandissimi. C'è una Unione Africana che è nata forse anche più attiva della stessa Unione Europea. Nessuno ne ha mai parlato, questi giorni non si è sentito parlare, solo abbastanza, in maniera abbastanza timida, la premier adesso, Berlusconi, dice, ma forse sarebbe il caso di sentire l'Unione Africana. Ma questi qua, nessuno dell'Unione Africana dirà niente, perché hanno una paura fottuta di questo signore, che ha fatto delle strage in Africa e non solo. Vorrei solo ricordare un particolare, almeno quello che in questo momento anche mi duole. Tutti quei migranti che abbiamo rimandato nel suo paese perché gli abbiamo dato un sacco di soldi, molte di quelle ragazze sono finite nelle sue carceri violentate, anche uomini uccisi oppure morte nel suo deserto. Nessuno, questi sono morti che nessuno piangerà mai. Ci sono stati degli articoli sul Fatto Quotidiano, sull'Unità, sul Manifesto, ma tutti gli altri hanno completamente ignorato che noi stavamo consegnando queste persone a un boia. Quindi adesso tutto questo gran piangersi attorno veramente mi lascia molto perplessa. Fatto sta che questo è un uomo che dovrebbe essere processato come molti altri capi di Stato africani che stanno lì da 40 anni, e non è un regno, perché si parla di Stato e di nazioni, non mi risulta che siano regni dove ci sia un re o meno. E poi quando sono vecchi, vogliono andare via, mettono i loro figli, ma neanche fossero eredi disegnate da Dio, insomma. E questo accade, e puntualmente ci ritroviamo come se meravigliati, siamo dei dolci meravigliati, sempre sorpresi, e le cose non stanno così. Come la vedi questa guerra che Putin definisce crociata? Io come la vedo? La vedo molto male, perché ritengo che ci sarebbero stati anche altri tipi di strumenti, non adesso. Adesso, per forza di cose, l'unica risposta è di utilizzare questi bombardieri per fare questo tipo di atto. Però non, i problemi non si risolvono. Con fucile, caccia, bombe e così via, tanto punto a capo, si trovasse un modo di dialogare con le popolazioni africane, perché è stata la Tunisia, l'Egitto e cose. Non vorrei essere una che predice delle cose strane. Fra 5-10 anni sarà l'Africa subsahariana, e si parla di 1 milione alle porte, non è mica vero. In ciascuna nazione africana ha calcolata almeno 1 milione di persone che vogliono andare via, sono 52 le nazioni, quindi 52 milioni di persone per difetto sono pronti a partire dall'Africa. E questo l'Europa dovrà fare i conti con questo, fino a che si andrà lì solo per il petrolio, solo per i diamanti. Solo per rubare? E per rubare, solo per questo, bene, loro arriveranno. E poi l'Italia è l'unica porta di accesso, quindi prepariamoci. È molto difficile, e sono molto molto angosciata di questo, perché cioè, laddove l'uomo non ha potuto mettere al centro della propria attenzione l'uomo stesso. Questo non abbiamo fatto in Occidente. Questo non abbiamo fatto. E se l'uomo è disperato, se ha fame, ebbene scappa. Continua ad arrivare. 2 giorni fa sono stata in Sicilia, ho visto i siciliani molto preoccupati, prima ancora che per la sorte di questi che arrivano, ma anche per loro stesso, perché quel signore lì, Gheddafi, insomma, si impazzisce insieme a lui. Altri, l'Italia è alla porta, però speriamo non sia mai, insomma. Ecco, sulla guerra e anche sulle guerre disgustose che combattiamo dal 99, che si chiamano guerre umanitarie, mi viene sempre in mente questa poesia di Ezra Pound. Questi combatterono in ogni caso, alcuni presti nelle armi, alcuni per avventura, alcuni per paura di essere deboli, alcuni per paura di essere biasimati, alcuni per amore di strage, in immaginazione, imparando in seguito, alcuni per paura, imparando l'amore della strage. Morirono alcuni pro patria, non dulce e non et decor. Camminarono immersi fino agli occhi nell'inferno, prestando fede alle menzogne dei vecchi. Poi, sfiduciati, tornarono a casa, presso la menzogna, a casa e a molti inganni, a casa, a vecchie menzogne e a nuova infamia, all'usura, come il tempo antica e come il tempo spessa, e ai pubblici mentitori. Audacia mai veduta, scempio mai veduto, sangue giovane e sangue nobile, rose e guance e bei corpi, vigore mai veduto, sincerità mai veduta, disinganni mai detti in passato, isterismi, confessioni di trincea, risa dai ventri morti. Morirono a migliaia, e migliori fra quelli, per una vecchia cagna sdentata, per una civiltà rattoppata, per qualche centinaio di statue rotte, per poche migliaia di libri e brandelli. Questa poesia è tratta da Ezra Pound, dal poemetto Ode pour l'élection de son sépulcre. E in arrivo un messaggio nella bottiglia per Barbara Alberti. Mia madre è rimasta vedova quando avevo 5 anni, mai risposata. Ha preteso che il marito lo facessi io. Ero la sua unica compagnia e mi colpevolizzava se avevo degli amici e quasi quasi pure che andavo a scuola. Da quando ho la patente, poi, visto che non ce l'ha, si fa accompagnare dappertutto. Mi ha fatto perdere un buon lavoro perché era in un'altra città e ne ho trovato uno che non mi piace. Sono innamorato pazzo di una ragazza, la vedo di nascosto perché a lei non piace e mi mette sempre avanti la sua prescelta, mi costringe ad andarci al cinema. Soffro di depressione, prendo delle medicine, ma sono sempre più depresso. Max, bisogna stare attenti alle parole, che sono veicoli di obbedienza. I nomi che noi diamo alle cose possono perderci o salvarci. Depressione è tra le più insidiose ed è un'invenzione. Sei depresso? Lo credo. Stai con una persona che non ami, fai il lavoro che non ti piace, non dici mai quello che pensi e vorresti pure essere allegro? Depressione è una parola immaginaria. La depressione non esiste. La depressione è il sintomo, non è il male. Dimmi che sei disperato, solo, frustrato, cornuto, affamato, spaventato, che odi la vita che fai e direi una cosa vera. Se pensi alla tragedia greca, nella tragedia greca si ha il coraggio di chiamare le passioni e le angosce e le paure, i terrori, col loro nome. Adesso si azzerano tutte in uno solo, depressione, che si cura con la chimica. La depressione è un alibi per non scegliere. Quando ti definisci depresso, hai già ceduto a una società che ti vuole inerte e a tua madre che ti vuole schiavo, che ti vuole inesistente. Depresso, represso, arruolato nel gregge degli indifferenti, dei senza pensiero. Pensa a Giacomo Leopardi, è il più grande dei pessimisti italiani. Forse è depresso? Ma no! Leopardi è incazzato nero con la natura, con gli uomini, col proprio aspetto, ma affronta, combatte, crea, piange, non prende mica le pasticche. Il contrario di depressione è espressione. E la prova è che quando leggi la poesia più pessimista di Leopardi ti viene una voglia di vivere e di osare che non hai mai provato. Tu, Max, non sei depresso. Tu sei lo schiavo di una madre orrendamente egoista, con la quale sei di una debolezza altrettanto orrenda. Visto che lei ti ha educato nel ricatto e nella sottomissione, sta a te adesso educarla a riconoscere che esisti al di fuori di lei. Abbi la dignità di stare con la tua ragazza e soprattutto vattene da casa, subito. Vedrai che se ti decidi a esprimerti, ovvero ad essere, la depressione sparirà all'istante e senza medicine. La guardiana del faro. Vorrei passare ad un argomento non più allegro, perché riguarda l'insanabile dolore d'amore, però ecco, più intimo, meno spaventoso. Io credo che l'ultima grande storia d'amore del Novecento l'abbia raccontata Neil Jordan in un film del 1992, titolo italiano La moglie del soldato e titolo originario The Crying Game, Il gioco del pianto. Ed è molto interessante l'idea di questo film, ovvero che la donna ideale oggi è un uomo. Il film comincia con una domenica di pioggia in una cittadina dell'Ulster e c'è un giovane soldato inglese, Jody, pieno di nostalgie, lontano da casa, che gironzola in libera uscita e cerca disperatamente una compagnia per riempire questo pomeriggio sterminato. Si accontenterebbe di pochissimo, di un'avventura banale oppure anche di una birra con uno sconosciuto. Invece gli toccherà molto di più. Vede una donna elegante, bellissima, che gli fa cenno di seguirla. Lui le va dietro, la raggiunge, e appena l'ha raggiunta, sbucano fuori, in questo greto del fiume deserto, quattro giovani armati, gli saltano addosso e lo stordiscono con una botta di calcio di pistola in testa. Jody perde conoscenza e si risveglia, legato, dentro un capannone nel fitto del bosco, con un cappuccio di cuoio in testa. Si trova nel covo di terroristi irlandesi e scopre di essere stato rapito perché questi terroristi vogliono tentare lo scambio tra il soldato inglese che è lui e un compagno arrestato. Se gli inglesi rifiuteranno il baratto, Jody sarà ucciso. I sequestratori lo trattano molto male, sono sprezzanti, beh, è un soldato nemico. Ma chi lo tratta veramente con astio ed è odiosa è Jude, la ragazza che lo ha adescato. Per Jude, Jody è una merce di scambio, è una cosa. Fra tutti ce n'è uno solo garbato. Si chiama Fergus. È il più bello di tutti. È silenzioso, forse sensibile. E proprio a lui viene affidato il prigioniero. Com'è Jody? Jody è un ragazzone di colore, sovrappeso, anche un po' strabico. A prima vista niente di speciale. Se non fosse che ha la faccia brutta, bellissima, irresistibile, di Forrest Whitaker. E chi l'avrebbe detto? Si rivela un grande seduttore. È diverso da qualunque altro ostaggio. Non piagnucola, non minaccia, non è sottomesso e nemmeno arrogante. È sincero. Ha una nobile sincerità, più di quanto la situazione gli permetterebbe. C'è lui come una saggezza spiritosa, audace, e ha il dono di saper leggere in Fergus. Jody capisce che il suo guardiano, questo ragazzo abituato a uccidere, nasconde una natura gentile. Capisce che Fergus non sa niente della vita all'infuori della sua missione armata, che non conosce la gioia, che forse anela alla tenerezza. Jody capisce che Fergus è un bambino truffato che vorrebbe indietro i suoi giochi mai giocati, ma non lo sa. Non sa niente Fergus. Il rapporto fra guardiano e sequestrato è molto intimo, per forza. Legato com'è, Fergus deve assisterlo anche nei bisogni corporali e lo fa con grazia. A un certo punto Jody gli chiede di liberarlo da quel cappuccio che gli leva il respiro. Fergus dice di no e gli dice anche: è meglio per te, se mi vedi sei un uomo morto. E Jody imprudentemente risponde: è inutile, tanto ti ho già visto. Ah sì? E come sono? Diciamo che sei quello bello, anzi sei il bello del gruppo. Fergus sorride e da lì comincia tutto. Gli toglie il cappuccio ed eccoli faccia a faccia. Isolati dal mondo, c'è un tempo senza fine. Jody comincia a raccontare, provoca il suo carceriere, lo corteggia, lo prende in giro. E Fergus si sorprende a divertirsi, a commuoversi, a ridere perfino. Forse è la prima volta in vita sua, perché uno così lui non l'ha mai visto. Coi suoi compagni si fanno solo piani di morte e quei giovani guerrieri sono seri, cupi, gelidi, anche fra di loro. Fergus sperimenta il calore umano, sperimenta la cordialità ironica di questo ragazzo che ha nelle sue mani, ma si sente alla pari, lo tratta alla pari. Jody ama vivere, non ama altro. Il rischio lo rende ancora più amabile. Incanta Fergus al punto che Fergus dimentica l'ora e il luogo. Quel capannone triste si dilata, si anima. Fergus è programmato per uccidere. E per una volta si vede scorrere davanti le seduzioni semplici di una vita che si è negata. E risente un desiderio sommerso di allegria e di tenerezza. A questo punto i compagni di Fergus sono molto stupiti che lui non si lagni mai di quel turno di sorveglianza ininterrotto che deve fare. Pensano, ma che abbia trasgredito la prima regola dell'etica terrorista, che abbia instaurato un rapporto con l'ostaggio. E quindi si tende anche un po' il rapporto fra i compagni e Fergus. In queste lunghe veglie, Jody parla a Fergus a lungo della sua ragazza, Dill, che forse non vedrà più. E Fergus si innamora di quell'amore. Senza che se ne accorga, Fergus si sta trasformando. È già molto meno un terrorista, perché gli viene il dubbio fondamentale, ovvero il dubbio che sia assurdo sopprimere un capolavoro di uomo come Jody. Invece, l'esecuzione è già decisa. Arriva la notizia che gli inglesi hanno respinto lo scambio e Jody è condannato. I terroristi vanno ad annunciarglielo e mentre stanno arrivando, fuori dal capannone sentono Fergus che ride col prigioniero. Si scandalizzano. Allora è vero che due insieme si divertono. Non solo, peggio, sono diventati amici. È quasi un tradimento. E la ragazza, la bella e spietata Jude, che ama Fergus, è pure gelosa. E allora danno l'incarico a lui di portare il soldato nel bosco e di eseguire la sentenza anche per punirlo di questa confidenza eccessiva. Fergus porta Johnny nel bosco e mentre vanno verso il luogo dell'esecuzione, Jody gli mostra la foto di Dill, la sua ragazza. Fergus la guarda, gli piace moltissimo e Jody si fa promettere che dopo andrà a trovarla e di riferirle queste parole. Dille che Jody l'ha pensata fino all'ultimo. Fergus promette ed è contento di avere una scusa per perdere tempo perché non si sa decidere a sparargli. Jody approfitta di questa esitazione per sfuggirgli, si butta a correre nel bosco, tenta di salvarsi buttandosi verso la strada, corre, corre, corre. Fergus lo insegue col fucile spianato e intanto il vecchio Fergus lotta col nuovo. Quale dei due sarà più forte? Lui non lo sa ancora, non sa se avrà il coraggio di sparargli alle spalle o se lo lascerà fuggire. Fergus ha la fortuna di non dover scegliere, perché appena raggiunta la strada, Jody viene travolto da un camion e muore sul colpo. Fergus lascia i suoi compagni e va a Londra. Va a cercare Dill. Vuole mantenere la promessa fatta all'amico morto. Riesce a incontrare Dill. La vede. Innamorato, lo era da prima. Innamorato di racconti, innamorato per averla vista in foto. Ma quando ce l'ha davanti, tutto il resto scompare. Scompare la causa dell'Irlanda, il pericolo dei compagni che lo stanno cercando sicuramente, i suoi delitti. Si trova davanti questa ragazzina di pelle scura che di giorno fa la parrucchiera e la sera canta, vestita d'oro, in un locale equivoco. Quanto è bella! È come un verso di Browning. Bellezza mia serpentina, tutta ricci e spire. E lei è un piccolo demone delicato e gli entra nel cuore subito, come Jody. Fergus le ripete l'ultimo messaggio dell'amante e mente, naturalmente, su tutto il resto. Si presenta a lei come un compagno d'arme che ha assistito alla sua morte e le dice che è morto durante un'esercitazione. E poi quando ripete le parole di Jody per lei, queste parole hanno un suono strano per entrambi, è come se li unissero in una specie di matrimonio segreto. Li prende un'emozione improvvisa, un nodo alla gola, e anche Dil si innamora di Fergus. Due volte, come Fergus e come messaggero del suo perduto amore. Immediatamente c'è questa storia ardente. Baci, baci, baci, abbracci, abbracci come nascosti l'uno dell'altra, come se intorno stesse crollando la volta del mondo. Ma al momento in cui stanno per fare l'amore, Dil si spaventa e fugge. Fergus perde la testa, non capisce qual è l'ostacolo, ma come se tremano soltanto a guardarsi. Finché una notte, al culmine del desiderio, Fergus strappa il vestito di dosso a Dil e scopre che Dil ha un sesso maschile. Fergus è irlandese, cattolico, eterosessuale fanatico. Per lui è una tragedia. Si sente ingannato, si sente sporcato, dà un cazzotto in faccia a Dil, la scaraventa a terra e scappa. Va a casa e lì ha una brutta sorpresa. C'è Jude che lo aspetta, la sua compagna, che è minacciosamente felice di averlo scovato. Sa tutto della ragazza, è gelosa come donna e furiosa come combattente. I compagni sono molto scontenti del suo abbandono e sono anche molto scontenti della tresca con Dil. Fergus dovrebbe essere eliminato. Invece gli danno l'occasione di riscattarsi. Però deve seguire l'ordine che Jude gli sta portando. La mattina dopo dovrà assassinare un giudice inglese. Se non lo farà, oltre a far fuori lui, si vendicheranno su Dil. Fergus corre da Dil e allora questa volta le dice la verità, le dice tutta la verità dall'inizio. Non c'è più tempo per le bugie. Le taglia i capelli con cura di madre e la fa vestire da maschio. Lui stesso le infila un maglione appartenuto a Jody per renderla irriconoscibile e Dil si trasforma. Infagottata e rapata, ormai somiglia a Jody. È diversissima, eppure gli somiglia. E Fergus vede rivelato il suo sogno, perché è Jody che sta cercando. Fergus cerca colui che lo ha fatto accorgere di sé, esistere. Fergus sa che può essere il suo ultimo giorno, non ce la fa a separarsi da lei. Femmina o maschio, è lei che ama. Fergus e Dil dormono insieme, abbracciati, disperatamente stretti l'uno all'altro. La mattina Fergus si sveglia e non riesce a muoversi. Si accorge che Dil lo ha legato al letto, per impedirgli di consumare l'attentato. Non vuole restare vedova per la seconda volta. Così, vestita da Jody, è un tenerissimo ragazzino smarrito che scongiura Fergus di vivere. Gli chiede: «Mi ami?» E Fergus: «Sì, dillo, ti amo». «Ti amo, Dil. E cosa faresti per me?» «Qualsiasi cosa». «Lo pensa davvero? O lo dice soltanto perché è legato, in balia di questa bambina che ha anche una pistola in mano?» Allora Dil gli slega un braccio perché possa abbracciarla e lui la tiene sul suo petto, come se esistessero solo lui, quel ragazzino, quel letto al quale sarebbe legato anche senza corde, come se la vita fuori si fosse fermata. Invece la vita fuori si muove e anche in maniera furiosa. Non vedendolo arrivare, Jude è presa dall'isteria del massacro. Devono fare quell'attentato. Lei e un altro terrorista vanno a uccidere il giudice, improvvisandola, disperata, senza neanche prepararsi. Il piano era un altro. Il suo compagno riesce a sparare al giudice e ucciderlo, ma immediatamente dopo la scorta fredda l'attentatore. Jude impazzisce, scappa con la macchina senza curarsi della polizia, di lasciare tracce, non le importa di salvarsi. Una sola cosa le importa: correre da Fergus e, con la scusa di vendicare il compagno morto, fargli pagare l'offesa che davvero le brucia, il suo tradimento. Prima con Jody, poi con Dil. Jude irrompe nell'appartamento dove Fergus è ancora legato, salvo una mano, e punta la pistola contro di lui. Sta per ucciderlo, ma anche Dil è armata ed è velocissima. La crivella di colpi. Jude muore, dicendo a Dil: «Sei una gran troia». Le sirene della polizia sono vicinissime. Dil è perduta. E a questo punto, con autorità di amante, di padre, di uomo impazzito d'amore, Fergus le ordina di scappare. Cancella le impronte di lei dalla pistola, vi imprime le proprie e aspetta la polizia. Viene arrestato e si addossa l'assassino della ragazza. Adesso Fergus è in prigione. Il loro amore continua nel parlatorio del carcere. Dil lo va a trovare ogni volta che è possibile. Fergus la guarda da dietro il vetro e ancora si ricorda un verso di Browning. «Oh mio bene, mio viso, luna mia di tutti». Allora Fergus diceva sul serio, legato al letto, «Cosa faresti per me? Qualsiasi cosa». Le ha dato la sua vita, non aveva di più. Il titolo inglese, come dicevo prima, è lo stesso della canzone che Dil canta nel locale, The Crying Game, il gioco del pianto. Sempre quello, uomo o donna, che sia chi amiamo, vivo o morto. One day soon I'm gonna tell the moon about the crying game. And if he knows, maybe he'll explain. La guardiana del faro. Comincio a credere, come sempre i matti quando stanno soli, che le creature accanto capiscano tutto più di me e che mi indichino la via. E stamattina un gabbiano si è appoggiato su questo libro che per devozione mi sono portata, Ti amo in tutte le lingue, di Claudio Ciaravolo e Olimpia Pratesi, uscito qualche anno fa per Mondadori, e lo guardava col suo occhietto laterale. E mi è tornata così vivace la presenza di Claudio Ciaravolo. Chi è Claudio Ciaravolo? È un genio napoletano. Un genio napoletano che vive nel gioco. Uomo di grandi studi, che ha dedicato appunto tutte le sue energie al gioco. Per esempio, è un grande creatore di leggende metropolitane. Anni fa girò molto la storia che a Napoli gli indisciplinati napoletani, pur di non adattarsi a portare la cintura di sicurezza, avevano una maglietta su cui era dipinta questa cintura. Bene, questa è un'invenzione di Ciaravolo. Cosa ha fatto? Ha fatto stampare 200 magliette così fatte e poi le ha vendute con un bancariello e ha ripreso tutto con una telecamera. Una volta che questa cosa viene detta dalla stampa, viene mandata in rete, diventa una leggenda inestirpabile. Lui poi mille altre volte ha negato questa cosa, ha spiegato il meccanismo in televisione, nei suoi saggi. Non c'è stato niente da fare e ha dimostrato appunto come voleva che la leggenda metropolitana, una volta che viene inventata e che viene diffusa, è eterna. In una delle sue tante vite Claudio Ciaravolo è stato psichiatra, allievo dell'americano Erickson. Mi ha raccontato spesso una storia molto affascinante di come lui abbia curato alcuni pazienti dal delirio, dalla follia, legittimandoli nel delirio e nella follia. Posso chiedere alla Capitaneria di Porto di chiamarmi, se hanno questa fortuna di trovarlo, il genio napoletano Claudio Ciaravolo. Qui Capitaneria di Porto. Come richiesto, lo psichiatra napoletano Claudio Ciaravolo è in collegamento. Barbara Alberti è autorizzata a parlarci. Pronto, Claudio? Mi senti? Mio caro, grazie per aver accettato. Sì. Si stava parlando proprio di te, del tempo in cui, nelle tue molte vite, come psichiatra, curavi i pazienti legittimandoli nella follia, in qualche modo. Quindi mi piacerebbe se ci raccontassi qualche episodio di questo genere. Beh, ovviamente questo qualche anno fa era il mio divertimento più forte, che era poi quello di provare strade nuove per migliorare la vita delle persone. E sicuramente chi viene da te e ti racconta una cosa assurda non è detto che debba necessariamente smentirlo. E allora alcune volte può essere anche un depresso che viene e che dice che la moglie sta abbastanza male perché lui sta male e ti racconta tutta la sua vita e come va abbastanza a rotoli. Ora lui si aspetta che tu gli dici che magari la vita è bella, che non vale la pena uccidersi per questo, però ci può essere un'azione provocativa, potrebbe anche essere la mia risposta, e alcune volte l'ho fatto con grande vantaggio per lui, per il mio paziente, dicendo: guardi, lei è il depresso più depresso che abbia mai conosciuto. In realtà non era vero, e d'altra parte però c'ha anche buoni motivi, perché i suoi figli vanno male a scuola, non la amano, e piano piano di descrivergli tutto intorno un quadro devastante, tanto che lui è costretto a dire: vabbè, ma scusi, proprio, ma insomma magari no, ecco, che mia moglie non è detto che mi tradisce, i miei figli poi sono bravi. Dico: sì, vabbè, ma magari lei non se ne è accorto. Nel dire questo, nel dipingere la realtà così nera come più di quanto lui l'avesse percepita, comincia a nascere dentro la voglia di contraddirmi, di dire ma chi gliel'ha detto a questo qua, che non posso mai guarire, ma chi l'ha pensato? E quindi se è stato scelto bene il momento, se lui si attiva su questo, pur di darmi torto, finirà per stare anche meglio, per dire ma poi alla fine, ecco questo meccanismo, un po' un gioco delle parti, può essere ribaltato anche con un delirio, anche forte. Per esempio mi ricordo di un delirante che era convinto che lo spiassero dappertutto, perché lui lavorava effettivamente come ingegnere in una struttura abbastanza complessa e quindi temeva per la vita dei figli, temeva per la moglie, temeva per questo. Il fratello era una persona molto influente, mi chiede se io posso fare qualcosa per lui, ma in questi casi è impossibile perché l'incontro a cena non ha senso, perché si capisce io come psichiatra e tutto. Ho detto lasciami fare, che cosa ho fatto? Mi sono fatto dare l'indirizzo, ho aspettato che lui scendesse riconoscendolo, l'ho seguito per un po' di volte e lui ogni tanto, essendo abbastanza paranoico, era molto pronto ad accorgersi del mio inseguimento, peraltro grossolano, e lasciavo correre, poi lo ripescavo la sera. Che cosa succedeva? Che lui stava anche un po' soddisfatto, come a dire, finalmente ho la prova evidente. Una volta è sceso con la moglie e continuamente mi indicava per dire, vedi che io non mi fisso, che mi seguono davvero, capisci? Perché questa è la disperazione, di non poter condividere i suoi sospetti. Poi a un certo punto lui mi aveva imparato a conoscere, io facevo dietro gli angoli, spuntavo da tutte le parti, insomma facevo quello che si fa nei film più grossolani. Poi a un certo punto una mattina ho deciso di intervenire. Mi sono messo dietro a un portone e a un certo punto lui mi ha visto e ha svicolato, io l'ho inseguito, più io correvo più lui correva, a un certo punto l'ho raggiunto ma con grande fatica perché lui correva davvero tanto, l'ho messo nell'angolo e gli ho detto adesso stammi bene a sentire, guai a te, io sono quello che ti sta seguendo dappertutto perché tu stai spifferando a tutti la storia dei tuoi segreti eccetera, devi stare zitto, fingi di essere normale, fingi che non è successo niente, fingi con tutti che noi ti seguiamo e lo sappiamo bene. Ora ovviamente che cosa è successo? Che lui, convinto del fatto che ormai questi che lo seguivano eccetera ce l'avevano sotto controllo, ma non gli avrebbero torto un capello perché lui non raccontava questa cosa in giro, lui è stato tranquillo. Il fratello dopo qualche mese mi ha detto ma sa che mio fratello sta proprio bene, è passato proprio tutto. In realtà che cosa era successo? Dopo un po' il delirio è rientrato senza farmaci, questo è un caso speciale, molto specifico, dovrei raccontare tutte le altre cose che hanno consentito il successo terapeutico che poi ho presentato in vari convegni, però il risultato è stato quello che certe volte forse lasciare una strada consueta, anche ben documentata, può essere soprattutto sull'invenzione terapeutica quando è ben strutturato e organizzato, quando ci sono ovviamente una serie di caratteristiche che la consentono e di protezione per il paziente, può essere una terapia provocativa assai efficace, ovviamente va distinto da caso a caso, ma la tentazione ogni volta di non mettermi dalla parte del sano, del medico, ma di condividere quel modo, quella prospettiva con cui poi la gente sta male, quel modo di vedere, forse non è sbagliato il modello che loro hanno, partono da una premessa sbagliata, uno può continuare quella premessa così come a un paziente che credeva di essere Gesù, come succedono tantissimi manicomi, mi ricordo moltissimi anni fa, e lui non voleva mai lavorare insieme con gli altri perché diceva io sono Gesù, e quindi nei gruppi di lavoro che si facevano i manicomi per cercare di convincerli ad occupare il tempo con una terapia di lavoro che li riabilitasse, il mio maestro di allora dice ma trova qualche sistema con questo qua che è imprendibile. Lui tra l'altro si chiamava Salvatore come nome e da lì era partito un delirio che lui era il Salvatore, non Salvatore. E allora a questo punto io ho fatto contatto con lui per un sacco di tempo e gli chiedevo delle cose della sua famiglia, lui mi raccontava di Giuseppe, mi raccontava delle cose. A un certo punto, dopo qualche giorno, ho detto senti, sai che giù in falegnameria avrebbero bisogno di qualcuno che come te è figlio di un falegname, sa come fare, perché tuo padre insomma dice mio padre sempre mi spiegava, parlava di un famoso Giuseppe. E così l'ho convinto, ricalcando il fatto che lui fosse Gesù e dunque come tale figlio di falegname, ad andare giù in falegnameria e si è dimostrato molto pronto, poi l'attività sociale lo ha migliorato, ovviamente non ha del tutto spento il suo delirio, però è riuscito a vivere un po' meglio insomma quella parte. Anche questo è un esempio di ricalcare, come dovremmo fare sempre, prima ancora di cercare di guidare, entrare nella realtà dell'altro, è un gesto d'amore che possiamo fare anche spontaneamente, ci viene di fare, ogni volta che ci piace qualcuno abbiamo l'impressione che tutto quello che dice lo condividiamo, no? Dovremmo tutti, più che cercare le anime gemelle, cercare... Le anime opposte. Le anime che ci consentono un dialogo strepitoso, divertente, che ci permette una crescita. La diversità è già di per sé un valore, insomma. Qui capitaneria di porto. Interrompiamo Barbara Alberti che parla dal faro di Finisterre. L'energia a disposizione è esaurita. Riattiveremo il collegamento tra una settimana. La Guardiana del Faro è un programma di Barbara Alberti, ideato da Gianluca Nicoletti. Realizzazione tecnica di Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti. A cura di Gloria Guerrera.